Ma è una semplice protesta per manifestare contro il DPCM messo in essere, perché a nostro avviso le misure che sono state varate dal governo vanno a colpire solo determinate categorie sociali senza impattare veramente nel problema virus Covid-19. Quali sono state le conseguenze più profonde che ha portato e porterà questo DPCM? Noi, da titolari di attività commerciali del centro, io personalmente socio in due attività ristorative, ci vediamo costretti a rimettere in cassa integrazione molti dipendenti, con la cassa integrazione che allora è arrivata con ritardi mostruosi e non è arrivata nemmeno ancora a tutti. Quindi si trova, oltre al danno all'attività che comunque rischia a lungo nel medio termine di chiudere, ci si ritrova con dei danni ancora maggiori, perché si mette gente in strada con dei danni sociali in mani. Cosa pensate delle misure previste dal governo e soprattutto del decreto ristori approvato proprio ieri pomeriggio? Io vedo le cose fatte sempre frettolosamente alla carlona, come si suol dire. Io faccio un esempio banale, non vengono mai approfondite, diciamo, nel dettaglio. Avendo due attività ristorative, una aperta da più di 2 anni e una aperta solo nel 2019, che è l'attività più grossa, l'attività più dispendiosa che abbiamo, con 13 dipendenti e con delle spese da affrontare enormi rispetto all'altra, riceviamo delle cifre completamente diverse che non sono in alcun modo parametrate al danno effettivo. Le cose vengono fatte senza mai approfondimenti e a casaccio. Voi cosa avete in mente di fare per salvaguardare il vostro settore? Cioè, partendo dalla protesta di oggi, avete in mente altre manifestazioni? Le manifestazioni nostre sono, che abbiamo in mente, sono sempre manifestazioni pacifiche che cerchino un confronto con ai piano comunale, regionale, nazionale, in modo da poter riuscire ad avere dei contributi seri o da prendere delle misure serie che non facciano fallire tutte queste attività, altrimenti il danno sociale, economico sarà a livello nazionale immane. Prefettura, stiamo chiedendo delucidazioni e cercando di fare valere le nostre dimostranze.